Focus Economia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Di cosa ci occuperemo oggi? Bene, innanzitutto torneremo sulla vicenda dei vigili di Roma che tanto sta animando il dibattito in queste ore ed è parzialmente collegato anche a quello di cui vi abbiamo raccontato e del quale abbiamo discusso nei giorni scorsi, o almeno qualcuno lo sta collegando, ossia il fatto che il Jobs Act possa essere esteso anche ai dipendenti pubblici. C'è qualcuno che in queste ore lo invoca e dice licenziamo questi vigili. Parleremo con il capo del principale sindacato i vigili urbani di Roma. La notizia qual è? La notizia ormai la conoscete, che la sera del 31 l'83,5% dei vigili urbani previsti per gestire la serata di Capodanno tra certificati di malattia, donazioni del sangue, assistenza ai parenti disabili, non si è presentato al lavoro. Morale, il comune è stato costretto a ricorrere alla cosiddetta reperibilità, che naturalmente costa molti più soldi allo stesso comune di Roma, riuscendo comunque a gestire la situazione. È arrivato poco fa, tra l'altro, anche un tweet della CGIL, dell'account ufficiale della CGIL, che dice siamo vicini e solidali con i vigili che hanno lavorato quella sera, ossia quelli che con la reperibilità si sono fatti richiamare in servizio. E la sostanza di questo tweet, adesso poi vi riferiremo esattamente che cosa dice, è insomma le lotte quando ci sono si conducono con i mezzi giusti, e poi ci saranno le inchieste che accerteranno tutto. Contro cosa protestano questi vigili di Roma? Contro una serie di cambiamenti, innanzitutto la revisione del cosiddetto salario accessorio, una revisione che riguarda tutti i dipendenti del Comune di Roma. Perché? Perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze un anno fa gli ha detto al Comune di Roma: sentite, voi al momento fate una distribuzione a pioggia, il salario accessorio è tale perché deve premiare la produttività, come succede tra l'altro nelle aziende, dovete cambiare il regime. Il Comune di Roma ha cambiato il regime, protestano i vigili, protestano anche i dipendenti comunali, e i vigili protestano anche perché c'è un piano anticorruzione del Comune di Roma che ha trovato l'accordo tra l'altro del presidente dell'autorità anticorruzione Cantone, che prevede una rotazione sui quartieri, e questo evidentemente ai vigili urbani di Roma non va bene. Ne chiederemo conto al capo dell'OSPOL, che è questo sindacato appunto dei vigili di Roma. Ci occuperemo di questo, ma naturalmente non solo. Ospiteremo all'inizio della trasmissione Luca Ricolfi, sociologo che abbiamo avuto ospite altre volte, tanto in Focus Economia quanto in altre trasmissioni, come editorialista della Stampa. Da oggi invece inaugura la sua collaborazione come editorialista del Sole 24 Ore, e lo fa con una bella analisi molto interessante che parte da questa domanda: le politiche di Renzi sono di destra o di sinistra dal punto di vista economico? E soprattutto chi lasciano fuori? Ci sono 10 milioni di non garantiti, così li definisce Ricolfi, una sorta di nuovo terzo stato, così lo chiama, che in queste politiche del governo non è sostanzialmente ricompreso. Ci occuperemo di mercati in una giornata ancora una volta positiva, più 0,33% il FTSE MIB, più 0,42% il FTSE O'Share, ma sono arrivati anche dei dati americani che hanno un po' fatto scendere le borse rispetto a quanto guadagnavano prima. È tutto iniziato bene, va bene anche e ancora l'andamento dei titoli di Stato, perché il rendimento ai decennali è arrivato a toccare l'1,76% con uno spread intorno ai 125 punti, quindi un andamento ottimo. Questo perché? Perché c'è un'intervista del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ad un giornale tedesco, l'Handelsblatt, al quale dice i nostri obiettivi di inflazione, ossia, lo ricordiamo, l'obiettivo della Banca Centrale Europea è tenere l'inflazione entro il 2%, non sono intorno al 2%, non sono vicini e quindi dovremo agire. Si attende il famoso quantitative easing, ossia l'acquisto di titoli di Stato da parte appunto della Banca Centrale. Dunque anche di questo parleremo e dell'andamento delle borse. Torneremo sull'Europa perché quello che si apre è un anno, quello che si è appena aperto, un anno che vede l'ingresso della Lituania nell'area euro da una parte, la spinta per un ulteriore allargamento ad est dell'Europa, ne è testimonianza la visita del Presidente del Consiglio l'altro giorno in Albania, nella quale ha parlato esplicitamente di questo, e però nel frattempo si moltiplicano le tensioni euroscettiche all'interno di quello che era il cuore dell'Europa, o comunque molto critiche verso la gestione attuale appunto dell'Europa. Questo sarà un anno di elezioni importanti perché si vota, come sapete, in Grecia il 25 gennaio, si vota in Spagna con la formazione Podemos che sembra al momento in testa nei sondaggi, e si vota in Gran Bretagna dove non solo lo UKIP, il partito di Farage, potrebbe guadagnare ancora parecchi consensi, dall'altra parte anche il partito conservatore, per far fronte a questa avanzata dell'UKIP, si sta spingendo fortemente su posizioni come si definiscono euroscettiche. Questo ed altro in questa puntata. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve di oggi, non prima di avervi dato il numero per intervenire in diretta, che come sempre è il 349-238-6666. A proposito dei vigili urbani di Roma, ci scrive un ascoltatore sull'assenteismo a Roma: sono il papà di un bimbo disabile, basta luoghi comuni sulla legge 104, che è quella che consente di stare a casa per l'assistenza ai parenti disabili. Guardi, dice, non fate di tutta l'erba un fascio. No, non facciamo di tutta l'erba un fascio, è vero, ma quando si sommano una serie di eventi di questo genere, oggettivamente qualche domanda ci consenta, bisogna farsela, insomma, no? Se ci fosse stato un 20% di assenze tutte dovute alla legge 104, probabilmente non avremmo avuto nulla da dire, ma dato che le assenze sono state più dell'80%, qualche domanda è giusto che ce la facciamo. A chi dice che Roma è uno stato a sé, diciamo no, che non è possibile, insomma. Iniziamo dalle materie prime, come sempre l'oro in rialzo a 1188,46 dollari l'oncia, in risalita dello 0,6%, mentre segnaliamo anche oggi un calo del prezzo del greggio. Il WTI, quello quotato a New York, è sotto i 53 dollari al barile, quello con consegna a febbraio, meno 0,68%, e a ridosso dei 56 il Brent, quello quotato a Londra, meno 1,81%, a 56,29. A cosa dobbiamo tutto questo? Naturalmente a quello che vi abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi e nelle settimane scorse, ossia l'Arabia Saudita che vuole tenere i prezzi bassi, tutto questo in una congiuntura che vede anche un calo della domanda da parte della Cina, rischi di rallentamento ulteriori dell'economia con l'indice PMI di dicembre sceso ai minimi da un anno. E poi ancora le tensioni che riguardano la Libia. A proposito di ribassi, dobbiamo segnalare anche quello dell'euro. Ci vogliono un dollaro 20 e 24 per comprare un euro oggi, quindi il ribasso è piuttosto deciso. E i dati dagli Stati Uniti che, come si diceva, hanno avuto un impatto sui mercati. L'indice ISM manifatturiero, che misura l'andamento del settore appunto manifatturiero, è sceso in dicembre a 55 punti e mezzo dai 58,7 di novembre. Gli analisti si attendevano un calo, ma molto più limitato. Mentre la spesa per l'edilizia è calata dello 0,3%, un dato questo invece migliore delle attese degli analisti, che scommettevano su un calo dello 0,4%. C'è, come si diceva, l'intervista del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che dice varie cose. Dice che il rischio di non rispettare il nostro mandato sulla stabilità dei prezzi è più alto di 6 mesi fa. L'Eurotower raggiunge in corso preparativi tecnici per modificare la dimensione, la velocità e la composizione, ed è questo forse lo snodo centrale delle nostre misure, a inizio 2015 se necessario. Smentisce tra l'altro Draghi che ci sia una qualche ipotesi che lo vuole alla presidenza della Repubblica Italiana. A domanda precisa risponde: io non voglio essere un politico e il mio mandato a Francoforte proseguirà fino al 2019. Calano i rendimenti dei titoli di Stato italiani. Da segnalare che calano anche quelli tedeschi, i quinquennali sono scesi per la prima volta sotto lo zero, per la prima volta dal 1990, ossia da quando Bloomberg per esempio ha iniziato a raccogliere i dati. Il rendimento è sceso a meno 0,001%. Sempre numeri dall'Europa, l'indice PMI che misura l'attività economica dell'Eurozona a dicembre sale a 50,6, sotto la stima precedente di 50,8, mentre va male quello italiano a 48,4 punti dai 49 di novembre. Le attese erano comprese in un range fra 49,3 e 50,5 punti. È un range piuttosto ampio, a dir la verità. C'è il commento di Tony Barber del Financial Times sull'Italia e su Renzi. Scrive l'FT, ne parleremo poi più avanti nella seconda parte della trasmissione, che Renzi è l'ultima speranza per la classe dirigente italiana. Il deterioramento dei tradizionali partiti e dei processi democratici è di gran lunga più avanzato nel nostro paese rispetto ai paesi presi in considerazione. Il principale problema non è il movimento di Grillo, scrive Barber, ma il fatto che praticamente la metà dell'arco politico, da Forza Italia alla Lega Nord al Movimento 5 Stelle, è rappresentato da forze che sottoscrivono le politiche euroscettiche. Aggiunge Barber che per la Democrazia Cristiana l'integrazione europea era il più nobile degli ideali, ma ora non c'è più un partito di centrodestra moderato e pro-Europa di qualche peso. È di estrema importanza che le riforme di Renzi vengano realizzate e applicate, continua il Financial Times. Indipendentemente dai suoi limiti, questo governo rappresenta l'ultimo lancio di dadi per i convinti riformisti dell'altra parte dello spettro politico italiano, la sinistra. E aggiunge: il resto dell'Europa dovrebbe augurargli buona fortuna. Lo spread, si diceva, scende fino a 125 punti, il rendimento dei titoli di Stato arriva all'1,76%, quello dei decennali. Poi c'è la vicenda dei vigili, della quale si sta discutendo molto, ci arriveremo tra un attimo. Vedo già, come era prevedibile, anche molti vostri sms al 349-238-6666. Continuate a mandarli se volete, vedremo se avremo tempo e modo di girare qualche domanda al capo, al segretario dell'OSPOL, questo sindacato dei vigili urbani, che in queste ore sta appunto difendendo l'operato dei vigili. E vi dico solo che il ministro della pubblica amministrazione Marianna Madia in un tweet dice che l'ispettorato del ministero della funzione pubblica si è attivato subito per accertare eventuali violazioni e un sollecito di azioni disciplinari. Dice ancora Madia: bisogna punire gli irresponsabili. Mentre si è acceso anche un faro dell'autorità di garanzia per gli scioperi, perché si sospetta che sotto queste assenze per malattia ci sia uno sciopero selvaggio. È intervenuto anche Renzi, sono intervenute CGIL, CISL e UIL. Per il momento vi risparmio, ci torneremo tra un attimo. Veniamo invece ai saldi, che, come vi diceva anche il giornale radio, quest'anno arrivano prima, tra il 2 e il 3 gennaio. Partono in tutta Italia, Campania e Basilicata oggi e domani tutto il resto d'Italia. Spesa media prevista sui 150 euro. Roberto Manzoni, presidente di FISMO, l'associazione dei confesercenti del commercio al dettaglio di moda e abbigliamento, intervistato da Livia Zancanera. La speranza è di fare più o meno come l'anno scorso, forse qualcosina in più, visto il qualche segnale positivo che si è visto in giro per l'Italia in dicembre. Gli assortimenti sono molto importanti, perché ci sono rimaste merci invendute in ottobre-novembre, che era molto caldo, per cui la stagione è partita con un grande ritardo, quindi oltre alla crisi economica anche la stagione ha favorito il poter trovare nei saldi dei belli assortimenti in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori. E quale sarà la spesa media o la spesa famiglia? Noi valutiamo la spesa media su linea più o meno come l'anno scorso, quindi circa 160 euro a persona, che segue l'abbigliamento alla moda. E abbiamo un po' più di ottimismo nel 2015, visto che non sarà l'anno della ripresa, ma sarà comunque l'anno in cui si smette di calare i consumi, cosa che in Italia sta succedendo da 6 o 7 anni. Quanto valgono sul fatturato le vendite di fine stagione? Il dato medio parla di un 20%, 25%, dipende dalle attività, dipende dalle tipologie, ogni negozio è diverso dall'altro. A Marco, che ci chiede che significa che il rendimento dei titoli tedeschi è sotto zero i quinquennali, e vuol dire esattamente quello che abbiamo detto. Che cosa fanno gli investitori in questo caso? Lo abbiamo spiegato la settimana scorsa con un gestore: comprano titoli di Stato tedeschi che danno una maggiore, aperte virgolette, una maggiore sicurezza di rimborso, per così dire, e poi equilibrano questo, che nella sostanza è un investimento negativo, un investimento che non rende niente o addirittura insomma ti costringe a pagare, con titoli più ad alto rischio, intendendo con questo anche titoli come quelli italiani, che insomma non sono particolarmente a rischio, però lo sono più di quelli tedeschi e rendono di più. Detta molto semplicemente. Ancora molte domande sui vigili di Roma, adesso ci arriveremo, non vi preoccupate. Saluto intanto Luca Ricolfi, docente di analisi dei dati all'Università di Torino, sociologo, editorialista di economia per lunghi anni con La Stampa, al quale diamo invece il benvenuto da oggi con un suo editoriale al gruppo Sole 24 Ore. Buongiorno Ricolfi, buonasera, anzi, e benvenuto. Buongiorno. Allora, oggi lei inaugura questa sua collaborazione raccontando di una sorta di terzo stato, no? Che sembra essere escluso dalle politiche del governo, cioè mentre lei analizza chi ha favorito questo governo, per così dire, ragionando con la consueta dicotomia, no? Destra-sinistra, se questo governo è più di destra o più di sinistra, e conclude che non è né l'uno e né l'altro, nel senso che è riuscito a favorire tanto gli autonomi da una parte quanto i lavoratori dipendenti dall'altra, c'è questo mondo di 10 milioni di esclusi, di non garantiti, per così dire, che invece, come dire, da questo governo governo non ha avuto poco, nulla se non pochissimo. Sì, in realtà io dico una cosa forse un po' provocatoria, cioè che questo governo più che non essere né di destra né di sinistra è sia di destra sia di sinistra, nel senso che ha fatto dei provvedimenti come il bonus nettamente favorevoli al lavoro dipendente, graditi alla sinistra, e sta prendendo anche invece delle decisioni gradite al mondo del lavoro autonomo, al mondo delle imprese, come la decontribuzione, l'articolo 18, l'ammorbidimento dell'articolo 18 dal punto di vista delle imprese e così via. L'idea mia è che questa politica favorisce due gruppi sociali che hanno una consistenza di circa 10 milioni di persone, secondo i miei calcoli, che sono da un lato il gruppo sociale o società, come lo chiamo io, dei garantiti, cioè dipendenti pubblici e dipendenti privati delle grandi imprese, e dall'altra la cosiddetta società del rischio, cioè essenzialmente le piccole imprese, gli artigiani, gli imprenditori, i dipendenti delle piccole imprese non protetti da ammortizzatori sociali, articolo 18, eccetera. Ma dimentica questo governo un altro terzo della società italiana, altre 10 milioni di persone, che invece io chiamo gli esclusi, esclusi nel senso che non stanno sul mercato del lavoro regolare o stanno decisamente al di fuori del mercato del lavoro. Grosso modo le componenti degli esclusi sono tre: il lavoro nero, e non intendo lavoro precario, intendo proprio lavoro nero, come quello degli immigrati irregolari, i disoccupati, che sono ormai quasi 3 milioni e mezzo in Italia, abbiamo il massimo storico dall'Unità d'Italia a oggi, e poi c'è un'altra componente che sono i lavoratori cosiddetti scoraggiati, cioè persone che non cercano lavoro ma sarebbero disposte a lavorare se i posti di lavoro ci fossero. Questi sono circa 4 milioni. La somma di queste tre componenti fa 10 milioni di persone, di cui tutta la politica, non soltanto Renzi, sembrano essersi dimenticati completamente. È anche un mondo, professore, questo qua del quale lei parla, molto, molto frammentato, non solo nei tre settori che lei dice, ma anche al suo interno, anche semplicemente per localizzazione geografica e quindi, come dire, tipo di impostazione nella vita e nel lavoro. E quindi sì, è un mondo che inevitabilmente non ha rappresentanza perché non è in grado di cercarla nemmeno. Sì, è un mondo molto frammentato anche dal punto di vista geografico, verissimo. Ad esempio, gli immigrati sono concentrati al nord, mentre disoccupati e inoccupati sono concentrati al sud. La difficoltà di avere una rappresentanza però dipende anche da un fattore più sottile, e cioè che se noi ragioniamo in termini di famiglie piuttosto che di individui, noi abbiamo una straordinaria sovrapposizione e intreccio tra le tre società, cioè nella medesima famiglia può convivere un soggetto che fa parte del mondo dei garantiti, per esempio un nonno che è andato in pensione, un soggetto che fa parte del mondo del rischio, della società del rischio, per esempio un dipendente, un adulto 45enne dipendente di una piccola impresa. E poi magari una moglie e un figlio, giovani e donne, che sono invece parte della terza società, di quello che io chiamo un po' provocatoriamente il terzo Stato, perché non hanno un'occupazione di nessun tipo. Quindi la difficoltà di dare rappresentanza dipende dal fatto che queste tre società spesso convivono all'interno della stessa famiglia, c'è un conflitto che non può esplodere, perché il nostro stato sociale è basato proprio su questo meccanismo, secondo me, un po' perverso, per cui la protezione che lo Stato non è in grado di dare la dà la famiglia. Lei ha l'impressione, professore, che sia rappresentato, per così dire, sempre per usare questo termine che stiamo utilizzando all'inizio di questa intervista, che sia rappresentato tutto il mondo che lei definisce del rischio, o c'è una fetta del lavoro autonomo, ce ne siamo occupati spesso a questi microfoni, mi riferisco in particolare alle cosiddette partite IVA, in particolare a quelle che fanno lavori intellettuali, si stima un milione e mezzo di persone, che appunto ha sempre faticato a trovare una rappresentanza e che forse anche in questo caso non ha trovato, come dire, non riesce a rappresentare nemmeno una constituency elettorale, quindi non riesce, come dire, appunto a farsi rappresentare. Verissimo, in effetti dicendo che il terzo Stato o la terza società non è rappresentata non volevo implicare che le altre due lo fossero. La prima società ha sicuramente un elevato livello di rappresentanza grazie ai sindacati e alla sinistra, ma lei ha perfettamente ragione, la società del rischio è ben poco rappresentata, è stata rappresentata in qualche modo imperfettamente dal centrodestra, ma in questo momento ha una rappresentanza particolarmente imperfetta, perché né il centrodestra né il Movimento 5 Stelle sono in grado di rappresentare adeguatamente questa fetta della società italiana. Però devo dire, forse la responsabilità è anche dei diretti interessati, cioè il tipo di aggregazioni che sono stati in grado in questi anni di mettere in piedi i piccoli sono molto insoddisfacenti, per quello che capisco io da osservatore esterno, Rete Imprese e le piccole confederazioni di cui è costituita non sono un soggetto particolarmente efficace e non lo sono probabilmente anche perché in questo mondo, nella società del rischio, c'è un disinteresse per la politica e quindi una sottovalutazione del problema della rappresentanza. Quindi io lo vedo come un limite dei soggetti che dovrebbero essere rappresentati, cioè potrebbero farsi rappresentare molto meglio, ma non sono capaci o non hanno intenzione di farlo. Diverso il caso degli esclusi, dove c'è una difficoltà obiettiva. Allora, un paio di note che ci arrivano dagli ascoltatori al 349-238-6666. Innanzitutto Valeriano, mi sembra che poi il punto l'abbiamo colto esattamente un attimo fa. Si è parlato non di specificatamente di autonomi e liberi professionisti, ma di società del rischio, perché ci scrive Valeriano, poi ci direte quali sono le misure prese dal governo in favore di autonomi e liberi professionisti. In effetti da questo lato non si è visto moltissimo, professore, no? Ma io parlo dell'insieme della società del rischio. Allora, io per esempio sono molto critico sul regime IVA, sul fatto che la contribuzione sia passata dal 5 al 15%. Ci sono, da certi punti di vista, la società del rischio è stata danneggiata da questo governo. Però se uno vede le cose nel suo insieme, bisogna riconoscere che l'intervento sull'IRAP e la decontribuzione, quando verrà messa in atto, perché non è ancora attiva, sono provvedimenti che vanno a favore di segmenti della società del rischio e la cui entità non è trascurabile, perché a regime saranno 5 miliardi di euro di decontribuzione, anche se soltanto per gli assunti nel 2015, e anche lo sconto IRAP non è irrisorio. Non era successo molte volte che un governo intervenisse a favore di questo tipo di categorie in misura così cospicua, anche se bisogna dire che l'abilità di Renzi è stata di nascondere i costi di questa operazione, perché sia l'operazione degli 80 euro in busta paga che gli aiuti alla società del rischio sono stati pagati in modo diffuso da tutta la società italiana, cioè gli aumenti non so, delle tasse sulla casa oppure anche del pellet, per esempio, che non porta tantissimo, ma giusto per dare un'idea. Ci sono tantissimi micro e macro aumenti che sono stati di tassazione, di entrate dello Stato che sono stati inflitti alla società italiana, ma che hanno avuto un risalto mediatico molto minore dei benefici. Quindi c'è un mix di misure. Allora, un paio di risposte che però in questo caso vorrei dare io agli ascoltatori. Mauro, che è un autonomo, che ci scrive da Gioia del Colle, provincia di Bari, e dice: ma perché autonomi uguale destra e dipendenti uguale sinistra? Basta nel mettere contro gli italiani, sono disgustato. Mauro, non si sta facendo questo ragionamento, si fa un ragionamento su quello che tradizionalmente la sinistra rappresentava e che tradizionalmente la destra rappresentava, e su come si stia muovendo questo governo su questa linea, cioè a ridosso e a cavallo di questa linea. Questo era semplicemente il ragionamento, cioè non si sta dicendo che sia ancora così o che continui ad essere così, anzi è l'esatto contrario. Agostino da Genova invece, che deve essere un dipendente pubblico, ci dice: caro Ricolfi, siamo garantiti perché il contratto è bloccato 5 anni fa. Qua, se vuole rispondere il professore, la faccio rispondere. Intanto dico io: pensi anche a tutta la gente che invece di avere il contratto bloccato il posto di lavoro l'ha perso, è finito in cassa integrazione o è stato licenziato. Comunque prego, professore. Ma ha già risposto lei. Io posso aggiungere che anch'io sono nella situazione dell'ascoltatore, perché sono dipendente pubblico, io lavoro all'università, insegno analisi dei dati a Torino. Noi abbiamo gli stipendi bloccati, i dipendenti pubblici non hanno rinnovo i contrattuali. Certo che abbiamo tutta una serie di svantaggi che sono stati inflitti a noi non solo da questo governo, ma anche soprattutto dai governi che hanno preceduto Renzi. Il problema però è che è estremamente difficile intervenire su un dipendente pubblico. Se i dipendenti pubblici improvvisamente le dico malattia, già, nessuno li licenzia. Esatto, perché tra un attimo, tra l'altro, su questo ci arriveremo, perché come dicevo agli ascoltatori avremo il segretario dei sindacalisti e dei vigili di Roma, al quale abbiamo oggettivamente da fare qualche domanda, insomma. Perché questo è il tema. Bene, io la ringrazio, grazie al professor Luca Ricolfi per essere stato con noi e le ripeto benvenuto nel nostro gruppo editoriale come collaboratore ed editorialista. Le auguro una buona sera. Grazie mille anche a voi. Ed eccoci di nuovo, devo una risposta ad un ascoltatore che ci ha scritto una ventina di minuti fa. Oddio, io non so se la devo, però mi sento di rispondere. Ci scrive questo ascoltatore che anche oggi una marchetta a Renzi. No, guardi, ci siamo limitati semplicemente a leggere, a riferire quello che ha scritto il Financial Times. Ed è una cosa che abbiamo letto perché la riteniamo rilevante, visto che l'FT, il Financial Times, è letto dalla comunità internazionale degli affari, è letto dagli investitori internazionali e quindi è rilevante ai fini di questa trasmissione. Abbiamo fatto nostra l'opinione del Financial Times. Tra l'altro, quando ci sono da far critiche al governo, come avete sentito anche adesso, non è che si lesina, non è? Cioè, e come abbiamo fatto anche nel discorso dopo il discorso di fine anno, la conferenza stampa di fine anno di Renzi. Veniamo alla vicenda dei vigili urbani di Roma, che molti hanno voluto incrociare in queste ore con il tema della mancata estensione del Jobs Act, ossia della riforma del mercato del lavoro ai dipendenti pubblici. Lo hanno fatto soprattutto alcuni pezzi dell'opposizione, Forza Italia in particolare. Cosa è successo? È successo che l'83,5% dei vigili previsti in turno il 31 dicembre per coprire la festa organizzata dal Campidoglio in via dei Fori Imperiali e il concertone del Circo Massimo non si è presentato al lavoro. Motivazioni: certificati di malattia, legge 104, che è quella che prevede un'esenzione dal lavoro per prendersi cura di parenti disabili o in condizioni difficili, donazioni di sangue. Stefano Lulli è segretario dell'OSPOL, il sindacato di polizia locale della capitale, appunto. Allora Lulli, che cosa è successo? Avete fatto uno sciopero non autorizzato su? Ma assolutamente non è stato nessun sciopero e diciamo, noi abbiamo soltanto indetto il 19 dicembre un'assemblea generale per il personale della polizia locale, perché siamo in una fase che dura ormai da 7 mesi sul contratto di lavoro, sì, proprio per informare i lavoratori, perché comunque sia poi come è avvenuto il 23 dicembre, si sa, l'amministrazione ha interrotto le trattative e ha messo in campo il contratto unilaterale dal 1 gennaio. Quindi abbiamo indetto questa assemblea, abbiamo avuto un rilievo da parte della commissione di garanzia, abbiamo tolto l'assemblea, diciamo spiegando le ragioni alla commissione di garanzia e via. Poi sul discorso delle assenze, prima cosa, questo dato, diciamo da quello che stiamo arrivando, abbiamo arrivato questa mattina, diciamo non ci conforta, perché è stato fatto tutto un calderone, diciamo generale, cosa che non è così. Sì. Chi è stato male, sì, chiaramente ha un certo momento. Ok, allora sarà stato fatto tutto un calderone, però la sostanza è cioè il dato è quello, no? Ma il dato è quello, non glielo posso confermare, perché per esempio sulle malattie il dato è molto più basso da quello che abbiamo rilevato proprio concretamente da quello che è stato detto e diramato dall'amministrazione. Quindi però adesso noi non vogliamo giocare su cifre o su cose, noi diciamo questo, chi sta male, è stato male e via dicendo, ha una certificazione medica emessa da un medico di base, da un medico di famiglia, quindi tutto quanto regolare, se ci sono responsabilità vanno accertate, punto, stop. Quindi noi non entriamo in campo su questo, noi quello entriamo in campo su questo, che questo evento poteva essere gestito in un modo tranquillo. Mi scusi, e le donazioni di sangue, Lulli? La donazione di sangue è permessa dalla legge, anzi. Mi scusi, incentivata, però proprio il 31 di dicembre non si poteva donare il primo, il 2? Ma questo il 30? Diciamo, non me lo devi chiedere a me, se il personale ha deciso di andare a donare il 31, evidentemente perché c'era un ospedale che chiedeva sangue o c'erano cose, questo diciamo sono fatti in cui non si può entrare nel merito di questo qui. E io gli do soltanto un dato, ma così possiamo far capire cosa. Lo scorso anno, in cui comunque sia, la polizia locale, molti appartenenti alla polizia locale si sono astenuti dallo straordinario, che è una modalità volontaria, non è una modalità coercitiva. L'evento è stato fatto con 250 persone, è stato garantito con 250 persone e via. E lo scorso anno c'era un numero, diciamo, di spettatori per il concerto di Capodanno molto elevato. Quest'anno sembra che non siano superiori a 70.000 persone che hanno partecipato al concerto, e quindi l'evento Lulli, qua lei mi sta facendo un ragionamento su con quanti vigili si poteva gestire l'evento e quanti vigili il Campidoglio ha richiesto, noi stiamo parlando di altro, appunto, di quanti vigili ha richiesto il Campidoglio, quanti vigili ha richiesto il comando e quanti se ne sono presentati. Cioè non c'entra con quanti si potevano gestire, perché uno può decidere che per gestire quell'evento per n motivi che non si sanno ci vogliono appunto 1.000 vigili urbani, e a quel punto se quelli danno la disponibilità e l'83% non si presenta, capisce che c'è qualcosa da chiarire o da capire, no? C'è qualcosa che avevo da capire. Allora, ripeto, il personale della polizia locale, prima cosa, è assoggettato a malattie o diciamo altre tipologie, no? Noi abbiamo oltre 200 aggressioni all'anno, però non si parla di questo. Abbiamo problemi di sicurezza, abbiamo problemi di salute, che non abbiamo le visite mediche, cioè ci sono tante cose che bisognerebbe spiegare ai telespettatori, e questa è l'avvertenza che dura da più di un anno, perché i scioperi che abbiamo fatto il 29 gennaio del 2014, 20 giugno, cioè diciamo non è che all'epoca era un altro motivo, è sempre lo stesso motivo. Allora, guardi, facciamo una cosa, dato che noi dobbiamo adesso sentire qualcosa che in parte vi riguarda, per così dire, nel senso, dobbiamo sentire cosa succede sulle strade, sentiamo cosa succede sulle strade e poi mi spiega perché protestate. Siamo con Stefano Lulli, segretario dell'Ospol, il sindacato di polizia locale della capitale. Dunque, perché protestate? Perché siete arrabbiati, diciamo così, se non vogliamo considerare quello che è successo il 31 sera come una protesta, uno sciopero selvaggio, perché poi su questo ci sarà un'inchiesta, si verificherà. Perché protestate? Protestate protestiamo, questa protesta inizia esattamente il 10 dicembre del 2013, con l'apertura dello stato di agitazione portato avanti al prefetto, lì si sono viste tutte le ragioni per cui si era alzata questa protesta da parte dei lavoratori della polizia locale. Quindi parliamo di sorveglianza sanitaria, perché la gente di polizia locale lavora sulla strada e la strada non è considerata luogo di rischio. Protestiamo per mancanza di misure di sicurezza, e ripeto, abbiamo oltre 200 aggrediti l'anno. E protestiamo perché mancano polizze assicurative fondamentali, pensate solo che poi abbiamo visto anche da casi di questi giorni, tenere la pistola a casa non è molto consigliabile perché non abbiamo armerie, non abbiamo armadietti blindati presso le sedi di lavoro e oltretutto non siamo assicurati per le 24 ore, quindi è tutta una serie di ragioni. Abbiamo presentato una proposta contrattuale a dicembre all'amministrazione che non ha presa neanche in considerazione, procedendo verso un contratto unilaterale che denigra il ruolo e le funzioni. Ma perché lo denigra? Mi scusi, a me risulta questo, perché poi di questa vicenda ci siamo occupati altre volte, lei è stato anche ospite della trasmissione che io normalmente conduco, che è Effetto Giorno, dalle 13 alle 14. Succede questo, che un anno fa il Ministero dell'Economia e delle Finanze dice al Comune di Roma: i salari accessori che voi date ai dipendenti del Comune di Roma, così come le distribuite, non vanno bene, perché vengono dati a pioggia. Un salario accessorio è tale perché prevede una prestazione aggiuntiva o un aumento della produttività. Il Comune di Roma fa partire delle trattative che evidentemente non si chiudono con un accordo e decide: dal 1 gennaio dopo questi rilievi del MEF devo far partire un contratto che preveda il salario accessorio in cambio di maggiore produttività. Tra le modifiche, le chiedo conferma, perché queste sono le cose che abbiamo letto. A me risulta, per esempio, che viene cambiato il sistema dell'indennità notturna dei vigili urbani, cioè l'indennità dei vigili urbani di Roma scattava alle ore 16 del pomeriggio e viene spostato alle 22 con questo nuovo contratto, per esempio. Allora, una roba di quel genere, mi scusi, lo dico da lavoratore dipendente, grida vendetta il fatto che un'indennità notturna inizia alle 16. Posso rispondere? E allora noi non abbiamo mai preso un'indennità notturna che partiva dalle ore 16, l'indennità notturna, giustamente come dice lei, parte dalle ore 22. Noi avevamo delle indennità di disagio, su questo non abbiamo opposto all'amministrazione, su questo modo qui, quindi abbiamo ricondotto a, come dice la norma nazionale, quindi non è questo il punto vertenza con l'amministrazione. Il punto di vertenza con l'amministrazione è che si vuole mettere una produttività che il personale della polizia locale non può fare. Il personale della polizia locale non è un impiegato amministrativo in cui hanno dei carichi di lavoro e quindi si misura con dei carichi di lavoro. Il personale della polizia locale non può essere assoggettato a fare pacchetti di contravenzione, perché andrebbe contro quello che dice la legge. Infatti lo vediamo con lo street control, contravenzioni indiscriminate, neanche fatte con le procedure di legge. Quindi noi quello che accusiamo è questo, è questo qui. Quindi la polizia locale non può essere soggetta a produttività, ma deve essere soggetta a prestazioni precise. Senta, per esempio, mi scusi, da quel che mi risulta, quel che ho letto almeno, nel nuovo contratto viene istituita una sorta di indennità di operatività, cioè vuol dire ci sono troppi, la faccio semplice per gli ascoltatori, secondo il comune ci sono troppi vigili dietro le scrivanie, quelli che vanno in strada ricevono un'indennità per essere in strada. Questo ci si può stare, Lulli, no? Non è così, perché non si riceve nessuna indennità per chi va in strada, anzi noi abbiamo sempre chiesto di spostare il più possibile l'operatività dagli uffici alla strada, vedendo anche la possibilità di mettere all'interno degli uffici, in quei settori dove non ci sono compiti di polizia giudiziaria, personale amministrativo, proprio per poter permettere maggiori persone in strada. Ma non è così, perché non c'è nel nuovo contratto unilaterale, non c'è nessuna indennità per chi sta per strada, c'è un'indennità di produttività dove a fronte di questo il personale della polizia locale deve vendere la propria vita personale, quindi non ha più garanzia sugli orari, ha una flessibilità oraria continua, a tutta una serie di motivazioni fatte dall'amministrazione per lenire alla mancanza di organico. Sì. Noi mancano 2.400 persone e l'amministrazione vuole, con questo sistema di produttività legata alla flessibilità oraria, legata a 36 orari diversi in un giorno, in cui un appartenente alla polizia locale deve montare, non garantendo più la normale convivenza familiare. Questo non è possibile. Senta, un'ultima domanda invece, il tema della rotazione, perché questo è un altro tema sul quale si dice che i vigili urbani di Roma siano molto arrabbiati. La rotazione sui quartieri, detta molto semplicemente, fa parte del piano anticorruzione del Comune di Roma, per evitare, aperte virgolette, tentazioni, e ha ricevuto anche l'approvazione del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Cantone. Mi sembra di capire che su questo voi non ci volete sentire. No, noi il discorso della rotazione, noi diciamo che la rotazione va applicata come dice la legge, né più né meno. Noi anzi vogliamo che la legge venga applicata, questo per farle un esempio. Quindi ci state, siete d'accordo con la rotazione? Noi siamo d'accordo con la rotazione come dice la legge. E quindi? In queste prime rotazioni che l'amministrazione che vuole fare, ci sono persone che sono malate con malattie gravissime, ci sono persone che a 3 mesi vanno in pensione, ci sono persone in cui non c'ha nessun senso quella corruzione. Noi diciamo che devono essere spostate quelle persone che individua la legge, chi sta nei contratti, chi sta negli appalti, chi sta in determinati uffici in cui ci sono processi amministrativi. Quindi non quelli che stanno in strada sostanzialmente, quelli che Noi diciamo vanno presi quei settori dove la legge va a specificare, che sono contratti, appalti e dove ci sono dei processi amministrativi molto delicati. Sì. Senta, un'ultima domanda per chiudere tutta la questione e per chiudere soprattutto quel tema dell'83,5% di assenti il 31 dicembre. Lulli, una parola di verità su questo, oggettivamente. Diciamoci la verità. Se ci fosse stata l'assemblea, gran parte di quell'83,5% avrebbe partecipato. Questo gli dico di no, lo sa perché? Perché chiaramente noi, anche il nostro compito come sindacato, andiamo a monitorare anche i servizi all'interno dei gruppi municipali già dal giorno 26, 27, 24, 22, quindi ai giorni già antecedenti c'erano delle malattie si andavano a conclamare. Quindi il discorso dell'assemblea anzi veniva sempre meno, perché chiaramente c'era un problema di personale. Però è un po' sospetta questa percentuale di assenze. Ma io ripeto, può sembrare alta nei confronti del cittadino, può creare un sospetto, ma per noi non è sospetto. Però per carità, se ci sarà un'inchiesta della magistratura, gli atti sono a disposizione dell'amministrazione, va a vedere tutto. Noi su questo non mettiamo assolutamente in dubbio che l'amministrazione non deve fare accertamenti, non deve fare quant'altro. Ci sono i medici di famiglia che hanno certificato, quindi per e noi poi sono anche, le altre, anche è sì. Questo qui. Allora, grazie a Stefano Lulli, segretario dell'OSPOL, sindacato di polizia locale della capitale. Buonasera. Buonasera. E qualcuno ce lo scrive, ma insomma ci abbiamo pensato anche noi, che anche sui medici di famiglia un po' di analisi andrebbe fatta. Siete cattivissimi e quindi non leggerò i vostri SMS. Però la parola che ricorre di più è specchio. E dico solo questo. Arrampicate. Flavia Carletti, Radio Correzione 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, buona giornata. Più 0,62% il FTSE MIB, più 0,69% il FTSE All-Share. Negative le altre piazze finanziarie europee. Parigi giù di 0,5%, Francoforte lo 0,42%, Londra in calo dello 0,28%. Che cosa succede? C'è Draghi che parla, no? Sì, esattamente, diciamo, sulle borse c'è stato un effetto Draghi che è stato positivo per le borse come quella di Milano e Madrid, considerati paesi più periferici, mentre invece è stata negativa su quella di Francoforte e Parigi. In particolare il Presidente della Banca Centrale Europea ha rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt parlando del fatto che comunque la BCE è pronta a intervenire per sulla situazione dell'inflazione che è troppo bassa e da troppo tempo. Ha parlato di rischi di deflazione, anche se comunque non così gravi e non così imminenti, e in più ha lasciato intendere, comunque gli operatori hanno inteso nelle sue parole, che già nella prossima riunione del Consiglio Direttivo del 22 gennaio si potrebbe arrivare al famoso intervento che aspettano tutti, o comunque che aspettano in molti, sui titoli di Stato, certo, dei paesi che sono in difficoltà, come intervento ulteriore per sostenere la ripresa della zona euro. E questo in qualche modo appunto ha avuto questo doppio effetto completamente diverso sulle borse, appunto, diciamo, dei paesi considerati periferici, piuttosto che quelle, certo, soprattutto di Germania e Francia, che sono invece due paesi che potrebbero essere meno interessati da questo tipo di intervento se la Banca Centrale Europea dovesse veramente arrivare a farlo. Tanto che tutto questo ha avuto un impatto ovviamente sull'andamento dei titoli di Stato italiani, il decennale è arrivato all'1,76% come rendimento, quindi tutto bene, e bene le banche come sempre in questi casi. Pop Milano più 5,07 la migliore, Monte dei Paschi più 2,43, Banco Popolare più 2,39, Popolare Emilia Romagna più 2,10, Ubibanca altrettanto bene, Unicredit più 1,87, Mediobanca più 1,40, Intesa San Paolo più 1,32. In mezzo a questi bancari mi spunta Atlantia, che guadagna il 3,16%, Flavia. Sì, esattamente. È stata il secondo titolo migliore del FTSE MIB, grazie a una notizia che è arrivata dalla Francia. Atlantia era la società che controllava questo consorzio Ecomove, che era stato incaricato dal governo francese di realizzare un sistema di telepedaggio per i camion in gran parte della rete autostradale francese. Lo Stato francese ha deciso di rescindere il contratto, e adesso sono state rese note quello che sarà l'indennizzo che riceverà Atlantia. Nel marzo 2015, il 2 marzo, dovrebbe essere versata nelle casse della società 403 milioni di euro, e questo comprende anche il recupero degli investimenti che aveva fatto la società italiana per questo sistema francese, anche compreso anche un rimborso di una quota del debito che era stato che comunque lo Stato francese aveva già detto che si sarebbe accollato. Quindi in qualche modo la notizia è stata accolta positivamente, perché quando invece era stata data la notizia della scissione del contratto nei mesi scorsi, invece il titolare l'ha risentito naturalmente in maniera negativa, perché comunque nell'incertezza di come sarebbe stata risolta la situazione contrattuale c'erano state delle vendite del titolo. Ora è stata fatta una schiarita sulla situazione, e quindi una giornata comunque molto piatta, dobbiamo dirlo, sì, anche con volumi di scambi e controvalori molto al di sotto di quelle che sono le medie dell'anno. La notizia comunque è risaltata, e quindi il titolo, certo, ne ha beneficiato. Allora Flavia, noi adesso ci fermiamo per il giornale radio, ti do appuntamento a dopo per un altro paio di titoli e poi per parlare del sondaggio annuale di Radio Core con Assium Forex. Ci fermiamo, molti sms ancora sui vigili, vi dico tra l'altro che Alessio Maurizio ospiterà il vice sindaco di Roma questa sera, quindi continuiamo a parlare di questa vicenda. Intanto pausa per il giornale radio, a tra poco. Eccoci di nuovo buonasera cara ascoltatrice e cari ascoltatori, da Simone Spezia. Molti sms sul tema dei vigili, ma perché, c'erano un paio di messaggi così, ma perché non avremmo dovuto invitare il segretario generale dell'OSPOL, che è il sindacato dei vigili urbani di Roma? È esattamente la persona alla quale chiedere conto di quello che è successo la sera del 31. Chi ci scrive? Mi sembra di capire che lei, conduttore, sia l'unico onesto della terra, si dona sangue quando si vuole, o è lei che stabilisce quando? Si dona sangue quando si vuole, certo, però se sei un vigile urbano di Roma e hai un ruolo specifico e ti viene chiesto il 31 sera, perché c'è il concerto di Capodanno, di lavorare, perché è il tuo ruolo, è il tuo dovere civico, c'è il 30, c'è l'1, c'è il 2, c'è il 3, c'è tutto il mese di gennaio e tutto il mese di dicembre prima. Poi vedremo sulle percentuali quando capiremo quanti sono effettivamente le richieste di questo tipo per la donazione di sangue, quanti sono i certificati per malattia rilasciati da probabilmente medici compiacenti o anche semplicemente medici che, ai quali si è telefonato dicendo un terribile mal di testa e hanno rilasciato il certificato, perché poi succede anche questo, insomma. Un po' di croce sui medici buttiamola, ma non tutta. Perché poi la questione là sta nel senso civico di una persona che sa e deve fare il suo dovere. E su questo non si gioca. Flavia Carletti, Radio Corriere del Sole 24 Ore, ancora con noi, e scusa per l'attesa. Abbiamo parlato di Atlantia, abbiamo parlato delle banche, parliamo di Salini in pregilo. Sì, Salini in pregilo ha chiuso la seduta con un rialzo dell'1,7%, ritracciando leggermente dai massimi, infatti in mattinata era salita anche di oltre il 3%, e la notizia che ha fatto scattare il titolo è stato il fatto che la Commissione Tecnica Internazionale, che è stata chiamata a valutare la disputa sulla responsabilità dei ritardi dei lavori del canale di Panama, ha condannato l'autorità che sovraintende questi lavori a pagare un primo risarcimento da 234 milioni di dollari ai costruttori impegnati nell'opera. E ricordiamo appunto Salini in pregilo è il general contractor che ha vinto la gara internazionale proprio per ricostruire il raddoppio del canale nel Centro America. La Commissione ha stabilito appunto che la responsabilità dei ritardi che si stanno avendo nella costruzione sono proprio da imputare all'autorità e non alle società che hanno vinto le gare. E quindi c'è stato questo riconoscimento a questo primo indennizzo e inoltre anche la possibilità per Salini in pregilo di ritardare l'esecuzione dei lavori per 6 mesi. Senza avere conseguenze a livello di penali o di pagamenti. E in più, diciamo, questa notizia è considerata importante perché ci sono anche altri reclami in ballo, non c'era solo questo. Quindi questo primo riconoscimento di questa commissione che ha dato torto all'autorità ha fatto anche ben sperare che probabilmente potrebbero arrivare anche ulteriori risarcimenti, visto che non è solo questo il reclamo che c'è in ballo tra le due entità. Questo il quadro per quanto riguarda i mercati in una giornata, come ci dicevi, complessivamente piuttosto piatta. Tra i titoli negativi c'è Campari -2,23, Jux -1,07, CNH -1,94, Telecom Italia -0,79, Pirelli -0,62, Snam -0,6%. Ti voglio adesso, Flavia, sulle prospettive per il prossimo anno, perché oggi è stato diffuso il sondaggio di Radio Core di Assium Forex, quindi gli addetti ai lavori, che cosa ci dicono sui mercati? Sì, appunto, questo sondaggio effettuato su alcuni operatori che operano sui mercati, rispetto al sondaggio fatto a novembre, si è rilevato che è aumentato il numero di coloro che sono ottimisti sulle prospettive di borsa per l'inizio del 2015. Il 42% attualmente contro il 40% di novembre prevede che nei prossimi 6 mesi gli indici di Piazza Affari avranno un rialzo compreso tra il 3% e il 10%, e poi è raddoppiato dal 3% al 6% il numero degli operatori che prevedono invece un rialzo superiore al 10%. E quindi diciamo, c'è una percezione quindi più positiva per quelle che sono le prospettive, e inoltre c'è anche nel clima positivo si è visto anche un aumento di quelli che credono che ci sarà, al di là dell'andamento di borsa, anche una ripresa più facile dell'economia, aiutata soprattutto dal crollo del petrolio. E quindi questo crollo, che invece per esempio nelle ultime sedute aveva anche zavorato alcuni titoli facendo pensare che potrebbe esserci creando dei problemi, diciamo, ai mercati, invece dal punto di vista dell'economia reale, secondo gli stessi operatori avrà un impatto positivo. Infatti adesso è il 79% quelli che credono che questo calo del petrolio potrà dare un forte aiuto alla ripresa. Grazie a Flavia Carletti, ai colleghi di Radio Corre Il Sole 24 Ore, anche per il lavoro che avete fatto con questo sondaggio per Assium Forex. Buonasera Flavia. Buonasera a tutti. Tra l'altro, guardate, ancora sul tema dei vigili, forse il migliore sms è quello arrivato da Stefano, da Modena, operaio, precario, 52 anni, dice: ho lavorato anche in condizioni di salute difficili per tenermi caro il mio posto di lavoro. Perché tutta questa vicenda, come vi abbiamo detto, anche dal punto di vista politico, riapre il tema del licenziamento per i lavoratori del pubblico impiego. Come sapete è un problema difficile, ne abbiamo parlato, però è una questione che in parte va affrontata. A chi dice che il sindacalista dell'OSPOL, che abbiamo avuto ospite, del sindacato dei vigili di Roma, andava sbranato, rispondo: signori, a me sembra che bastassero le risposte, poi fate come volete. Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Con noi per qualche minuto per parlare di questa apertura d'anno, un'apertura d'anno particolare. Poi tra un attimo avremo anche il collega del Sole 24 Ore, Gabriele Meoni, che ha fatto un bel punto sulle elezioni che ci sono quest'anno, che sono molte importanti, anche che rischiano di creare qualche problema a Bruxelles, che sono quella greca del 25 gennaio, ci sono le elezioni in Spagna, ci sono anche le elezioni in Gran Bretagna, dove la tensione euroscettica è particolarmente forte, lo è da sempre per tradizione, diciamo che con l'UKIP che preme sotto il Partito Conservatore, in questo momento lo è naturalmente ancora di più. Iniziamo però da chi ci è entrato nell'area euro proprio il primo gennaio, la Lituania, il tutto preceduto tra l'altro da una visita del Presidente del Consiglio in Albania con indicazioni forti da parte di Matteo Renzi della necessità di aprire a est una sorta di nuovo cuore dell'Europa, insomma questa espansione a est che prosegue anche con un ingresso nell'Unione Monetaria. Adriana. Sì, diciamo che la Lituania è il 19° paese che entra nell'euro e completa, se si vuole, il triangolo dei paesi baltici che hanno aderito alla moneta unica. L'ingresso della Lituania è particolarmente importante, non tanto per l'euro in sé, l'economia lituana è piuttosto piccola, solo 3 milioni di persone, ma è molto importante per i lituani, che ci hanno molto scommesso sopra e che soprattutto vedono nell'euro un'ancora di sicurezza di fronte a una Russia di Vladimir Putin, che in questi mesi, come si sa, è tutt'altro che rassicurante, soprattutto per i paesi che hanno delle forti minoranze russofone dentro i propri confini. Quindi direi che è un matrimonio di interesse economico, ma anche politico. Ma anche politico, evidentemente, e geopolitico direi. Allora, Adriana, adesso sentiremo che cosa succede sulle strade e poi ho una domanda e una riflessione per te più che altro. Ed è questa: citavamo poco fa queste tre elezioni in arrivo, dall'altra parte c'è questo editoriale del Financial Times di oggi che ci ricorda, parlando dell'Italia, che l'altra metà, per così dire, del Parlamento, che non è il Partito Democratico, si caratterizza ormai come euroscettica, perché la stessa Forza Italia ha una tendenza in questa direzione. È interessante come quello che è il cuore dell'Europa, la Spagna, la Grecia, l'Italia, o almeno del Sud Europa, tenda, come dire, ad essere sempre più euroscettico, mentre invece l'Est si avvicini progressivamente, vedendoci evidentemente un'area di prosperità, oltre che avendo le motivazioni politiche. Però ne parliamo tra un attimo, vorrei una tua riflessione su questo. Con Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore da Bruxelles, che tra poco ci deve lasciare, quindi ho quest'ultima riflessione che ti chiedo. Come ti dicevo, il cuore dell'Europa che sembra diventare sempre più euroscettico, invece l'Est che sembra avvicinarsi. Abbiamo parlato della Lituania, non scordiamoci la stessa Ucraina e il suo avvicinamento a Bruxelles. Questo è stato l'anno, in effetti, pieno della rivolta. Adriana. Sicuramente è logico che i paesi che stanno fuori dall'Europa per certi aspetti ne vedono meno le magagne, e in questo momento purtroppo ce ne sono tante, e desiderano in ogni caso entrare in un club che li rassicura sotto molti punti di vista, quello economico prima di tutto, ma anche quello politico e di sicurezza. L'Ucraina è diciamo il classico paese che vede nell'Europa e addirittura nella NATO quello che sogna, no? Come altri paesi dell'est sono entrati in Europa, l'Ucraina stessa vorrebbe farlo per sganciarsi dalla, come dire, dalla subordinazione completa alla Russia. Detto questo, quanto sia fattibile tutto questo è da vedersi. L'Ucraina è un paese molto particolare e dunque secondo me difficilmente potrà poi arrivare a un matrimonio o integrazione dentro l'Europa, o accordi di associazione di sicuro, ma al di là di questo secondo me è dubbio che possa riuscire. La crisi dentro l'Europa è una crisi del tutto diversa, è la crisi in un progetto, verso un progetto che perde il consenso popolare. Lo perde sicuramente nei paesi che hanno subito i rigori della Troica, la Grecia appunto, che voterà il 25 di gennaio, è sicuramente il caso più eclatante, ma appunto lo perde negli altri paesi che erano considerati europeisti di ferro. Non ci sono solo la Spagna, il Portogallo, la stessa Irlanda, che era è il paese che è uscito dalla miseria grazie all'Europa, che oggi diciamo hanno delle opinioni pubbliche che si rivoltano contro. Ci sono anche paesi ricchi come la Germania per esempio, che vede crescere al proprio interno il partito euroscettico che si chiama Alternativa per la Germania e che è contro l'euro. La stessa Olanda, altro paese ricco e prospero, ha il partito populista di Geert Wilders, che è diventato il primo partito, per non parlare della Francia, dove il Fronte Nazionale di Marine Le Pen è il primo partito a sua volta. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che il progetto europeo crea disagio per ragioni diverse più o meno in tutti i paesi. Anche nella Scandinavia ci sono partiti anti-europei, anche nei paesi che non sono dentro l'euro e che quindi non sentono i rigori della disciplina. E qui secondo me, se non si ritrova una crescita economica solida e se non si ritrova un'Europa che abbia una immagine meno arcigna e più come dire, più vicina alla gente. Una volta l'Europa era il simbolo della distribuzione del benessere e della sicurezza. Oggi l'Europa, dopo 6 anni di crisi dell'euro, è diventata invece l'immagine dei sacrifici, del rigore, dell'austerità, e quindi naturalmente non può, dei disoccupati. Non dimentichiamoci che la crisi ha creato 26 milioni di disoccupati, che sono la popolazione cumulata di Belgio e Olanda, tanto per dare un'idea concreta. Quindi in questa situazione è difficile che un disoccupato non diventi euroscettico, anche se naturalmente non tutte le colpe sono dell'Europa, molto spesso sono degli stati nazionali, ma è facile fare confusione e il populismo e gli stessi governi a volte marciano sopra l'Europa per cercare degli alibi, delle giustificazioni a delle politiche impopolari, e così appunto l'Europa è al punto in cui si trova, che non è brillante. Grazie Adriana Cerretelli per il Sole 24 Ore da Bruxelles. Noi continuiamo a parlare di Europa, ma delle elezioni in arrivo. Ancora un paio di risposte intanto però sui Vigili di Roma, il grande tema di oggi. Allora, Antonio da Roma ci scrive: i Vigili, a prescindere dal loro senso del dovere, hanno fatto risparmiare un bel po' di straordinario notturno al Comune di Roma. In realtà no, tra l'altro, perché Che cosa è successo? Che c'è un altro istituto che si chiama reperibilità, tramite il quale puoi richiamare delle persone in servizio, in sostanza. E il comune è stato costretto a richiamare delle persone in servizio, che è una cosa che gli costa di più del lavoro notturno dei vigili di quella notte. A Lucilla, che dice: scommetto un panettone e lei in 5 anni di radio non ha fatto un'assenza. No, ne ho fatte, ma insomma, non tantissime, e comunque il 31 dicembre sono stato qua fino all'1:30. Gabriele Meoni del Sole 24 Ore, della redazione Esteri, buonasera. Buonasera a voi. Ciao Gabriele. Ciao. Allora, vogliamo parlare di queste elezioni. Abbiamo accennato poco fa con Adriana Cerretelli di questa crescita dei movimenti euroscettici. Le elezioni che ci aspettano quest'anno in realtà vedono, come dire, delle ipotesi di prevalenza più che di movimenti euroscettici, di movimenti anti-austerity, mi riferisco in particolare a Grecia e Spagna, no? Assolutamente, hai detto bene, in effetti sono i due paesi che vanno al voto quest'anno, non gli unici, perché quest'anno in Europa ci sono ben 8 paesi dell'Unione Europea che vanno alle elezioni politiche, però Grecia e Spagna sono effettivamente due delle elezioni più importanti. Io ne aggiungerei un terzo fondamentale, direi che è la Gran Bretagna, che va al voto il 7 maggio. E la Grecia, ecco, dicevamo, è il primo, però va al voto il 25 gennaio ed è un voto molto atteso, e abbiamo visto anche come i mercati, no, nelle ultime settimane abbiano visto con grande tensione questo voto. Ecco. Naturalmente, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi con Vittorio Daroldi, i nostri ascoltatori che erano qua all'ascolto l'hanno sentito. Là naturalmente il tema, e qua lo riassumo brevemente io, è la possibile e probabile vittoria di Alexis Tsipras, che, e quindi di Syriza, e però probabilmente Gabriele sembra di capire che non potrà governare da solo, tant'è vero che sono già partiti i colloqui con Berlino. Esatto, questo è lo scenario in effetti di base, ed è quello che spiega perché poi negli ultimi giorni i mercati e gli investitori si sono un pochino calmati, cioè Syriza e quindi Tsipras con il suo programma radicale di lotta all'austerity, di rinegoziazione del debito pubblico greco, se lui vuole addirittura, ha parlato di un maxi sconto del 70% sul debito, e ricordiamo che il debito pubblico greco in questo momento è in mano per il 70% ai governi, quindi sostanzialmente andrebbe a scaricare sui contribuenti degli altri paesi europei, compresa l'Italia, un debito che non vuole più ripagare, quindi insomma diciamo un programma piuttosto allarmante, però in effetti gli ultimi sondaggi lo vedono ancora in vantaggio, ma con ogni probabilità non in grado di avere questa maggioranza che gli consentirebbe di governare da solo. Quindi lo scenario più probabile che vedremo in Grecia dopo il 25 gennaio qual è? Quello di un po' simile a quello che accade nel 2012, quando ci furono le elezioni a maggio, non si riuscì a formare un governo perché c'erano i partiti, appunto quello di centrodestra di Samaras e quello di Tsipras appaiati sostanzialmente, e quindi si tornò a votare un mese dopo. Ecco, è uno scenario assolutamente probabile, che però comunque non rassicura più di tanto, perché comunque diciamo l'instabilità politica, ecco, sarà ancora forte. Naturalmente. L'ultimo voto in ordine di tempo sarà quello spagnolo, che però ha una certa forma di parallelismo, se vogliamo, con quello greco, no? Hai proprio di sì, hai perfettamente ragione. Qui il fenomeno è Podemos, ne abbiamo parlato tanto, voi ne avete parlato tantissimo a Radio 24. Questo partito che, ricordiamolo, ha 10 mesi di vita e che secondo gli ultimi sondaggi è in testa, ha superato addirittura i popolari, quindi clamorosa ascesa di questo Pablo Iglesias, 36enne, insegnante di scienze politiche all'Università Complutense di Madrid. Questo partito, ricordiamolo, viene dal movimento degli Indignados, è proprio lo sbocco politico di quel movimento che occupò le piazze spagnole all'apice della crisi, che chiedeva maggiore trasparenza, la democrazia dal basso, ce l'aveva con le banche, con l'Europa, e chiedeva soprattutto meno austerity. Ecco, questo Podemos è primo nei sondaggi e quindi è una grande novità per la Spagna, perché la Spagna finora era stato l'unico paese europeo che era in qualche modo al riparo dai movimenti di protesta anti-establishment, no? Si era sempre detto, ma in Spagna alla fine i due grandi partiti popolari e socialisti reggono, e invece non più, quindi anche la Spagna è nel pieno di questa, diciamo, bufera che arriva dal basso, dalla gente, e che rischia effettivamente di travolgere la classe politica. Un elemento molto interessante anche dal punto di vista dell'analisi politica, evidentemente, mentre invece più prevedibile, se vogliamo, è quello che sta succedendo in queste ore in Gran Bretagna, dove l'ascesa dello UKIP sta spingendo verso l'euroscetticismo i conservatori, che già di loro non sono particolarmente europeisti. Assolutamente. No? Beh, lì quello secondo me è un voto fondamentale. Cioè, il 7 maggio la Gran Bretagna veramente si gioca al futuro, dentro o fuori l'Unione Europea. Abbiamo un partito, questo di Farage, dello UKIP, che è terzo nei sondaggi e che dice chiaramente che vogliono uscire dall'Unione Europea, quindi la loro posizione è piuttosto netta. E abbiamo, come giustamente hai sottolineato tu, un partito con David Cameron, il premier uscente, che ha un'ala fortissima al suo interno che effettivamente vuole la stessa cosa, cioè vuole uscire dalla UE. E Cameron, per arginare queste due forze, una interna e una esterna, cosa ha fatto? Ha detto che se vince le elezioni organizzerà, indirà un referendum nel 2017, quindi non è che è molto lontano, per decidere se la Gran Bretagna deve stare dentro o fuori l'Unione Europea. Quindi insomma, immaginiamoci la posta in gioco di queste elezioni. L'unico partito che apertamente non vuole il voto e non vuole il referendum sono i laburisti di Ed Miliband, che dicono no, noi assolutamente non lo vogliamo. Quindi veramente io credo che quello sia un voto forse il più, oserei dire il più importante in prospettiva, ecco. Grazie a Gabriele Meoni della redazione esteri del Sole 24 Ore. Il suo pezzo con tutti i dettagli lo trovate oggi anche sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. Francesco da Treviso ci scrive che metterebbe la Cerretelli a governare America, Russia, Cina, Germania, Italia, Francia, Inghilterra, perché è un dono di Dio. Che dobbiamo fare? Riferiremo. Intanto grazie a Barbara Bianchi in redazione, Filippo Aureggi in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Vi ricordo che lunedì torna, mi ritrovate con la consueta trasmissione Effetto Giorno, in onda regolarmente, quindi non più nella versione, diciamo, di Natale, come andate in onda in questo periodo dalle 13.15 alle 13.45, ma in onda dalle 13 con tutte le informazioni, tutti gli aggiornamenti dalla redazione, gli approfondimenti, le interviste, come sempre. A lunedì. Radio 24. La passione si sente.